All'inizio era la lingua. Questo libro parla di dita smembrate, di frammenti di tibia, di ciuffi di capelli rubati, di avanzi bruciati di un'anonima cassa toracica e di altri scampoli di resti umani. Ma non è un libro sulla morte. Attorno ad ogni singolo macabro oggetto che per svariate ragioni ha finito per essere venerato come reliquia religiosa, orbita un'infinita comunità di credenti e di scettici, di burocrati e di religiosi, di padri, madri e bambini, di pellegrini e accattoni, di truffatori e di semplici anime curiose. Questo libro parla della vita. Per riuscire a vedere la mia prima reliquia, circa 10 anni fa, rimasi in piedi in una fila di turisti che accerchiava l'altare di una basilica italiana. Per quelle che mi sembrarono ore, sotto uno dei tableau incisi nel legno delle stazioni della Via Crucis. Ognuno di essi rappresentava una scena della crocifissione, grande e spaventosa quanto la locandina di un film dell'orrore, ma nessuno prestava loro molta attenzione. Erano tutti occupati a controllare gli orologi, a sfogliare guide turistiche dell'Umbria, a ridere e a fare programmi in una dozzina di lingue diverse. Proprio davanti a me, una giovane madre con i capelli tinti di nero e un giaccone da motociclista dello stesso colore guardava il suo bambino che metteva i palmi delle mani sul pavimento lucido. Lo redarguiva in tedesco: «Nicht anfassen», non toccare, ogni volta che lui metteva le mani su qualcosa che sembrava sporco o fragile. Il bambino aveva i capelli biondi e le dita bagnate di saliva e ora aveva adocchiato una gomma da masticare vecchia e secca appiccicata a una delle colonne di marmo della basilica. Sia la gomma che la colonna sembravano essere lì da sempre, ma quando il piccino staccò quella pallina grigia, la madre lo sgridò «Horst! Nein!», come se toglierla da lì avrebbe potuto far crollare l'intero edificio. La fila avanzò di qualche passo e il piccolo Horst raggiunse i genitori che per nascondere il viso nell'incavo delle ginocchia del padre. Aggrappato con una mano a una piega dei jeans verdi e con l'altra infilata in bocca per non rischiare di perderla, trascinava i piedi sul pavimento per dimostrare che ne aveva davvero abbastanza. Aveva circa 3 anni e mi domandai se i genitori avessero almeno tentato di spiegargli perché lo avevano portato in quella chiesa buia in una così gradevole giornata autunnale. Se avesse capito cosa stavano aspettando di vedere, forse si sarebbe dimostrato più interessato. Alla fine della fila, che partiva dall'entrata della basilica a una 40 di metri da noi e arrivava in un punto che riuscivamo a scorgere a malapena, c'era quella che, così dicevano, era una lingua molto speciale. Una lingua umana appartenuta a una testa umana. Una lingua che si diceva avesse il potere di dare la parola ai muti e l'eloquenza a chi soffriva di disturbi del linguaggio o di anchiloglossia. Una lingua talmente straordinaria, affermano la leggenda e le guide turistiche, che era stata ritrovata intera, rosea e sana, nonostante il corpo per il quale aveva parlato si fosse ridotto ormai in polvere. Non era una lingua qualsiasi, ma la lingua del santo. L'antica città di Padova, 500 chilometri circa a nord di Roma, il santo si riferisce sempre e solo a Sant'Antonio, al quale quella basilica è dedicata. Nato alla fine del XII secolo in Portogallo, ma venerato con grande devozione dai cattolici italiani, Sant'Antonio è il santo patrono delle cose perdute. Tutti noi, come il migliaio di turisti in visita ogni giorno, ci trovavamo lì per vedere ciò che era rimasto di lui. Alzandomi sulle punte e allungando il collo, cercavo di vedere dove arrivava la fila, quando qualcuno dietro di me fece un ps e gli altri lo seguirono bofonchiando qualcosa e invitandomi a camminare con un cenno del mento. Mi voltai e scoprì che la fila era avanzata. C'erano ben 3 metri di spazio vuoto tra me e la famiglia tedesca. Alzai una mano in gesto di scusa verso la folla in attesa e mi affrettai a colmare quel vuoto. Quando raggiunsi i tedeschi, Horst era sdraiato sul pavimento. Sua madre si voltò verso di noi, poi lo sollevò di peso per la cintura e si scusò con uno sguardo. I pellegrini avanzavano ondeggiando, con la fila che ora faceva una curva e io che seguivo i tedeschi in uno stretto passaggio dietro l'altare. 4 metri più avanti, la fila, relativamente ordinata, si trasformò in ressa. Alcuni si fermavano a guardare, mentre altri cercavano di farsi strada in quel traffico di corpi, impazienti di avanzare, ora che l'attesa era finita. Non riuscivo ancora a vedere cosa causasse quel trambusto, ma era impossibile non notare i fuochi artificiali dei flash che si riflettevano sulle pareti, nonostante ci avessero più volte pregato di non tramutare quel luogo sacro in un set fotografico. Se non altro, noi ci limitavamo alle fotografie. In passato, all'apogeo della venerazione cristiana delle reliquie, pressappoco dall'undicesimo alla fine del XVI secolo, quando la riforma protestante mise fine al boom delle reliquie, le autorità religiose dovevano sorvegliare attentamente i resti sacri che esponevano. Si racconta di un vescovo inglese che, durante un pellegrinaggio in Francia, andò a visitare un monastero che esponeva un reliquiario contenente l'intero scheletro di Maria Maddalena. Impressionando positivamente i monaci con la sua devozione, il vescovo si inchinò a baciare la mano della Santa Donna. Nessuno si accorse che alla fine del bacio aveva staccato con i denti un pezzo di dito. Lo tenne in bocca per il resto della sua vita al monastero e, tornato in Inghilterra, ci fece un reliquiario tutto suo. Quindi, non c'è da sorprendersi se i guardiani della basilica lasciavano correre sulle fotografie. Non avrebbero comunque potuto farle molto. La quantità e la velocità dei flash suggerivano che tutti quei turisti australiani, tedeschi, coreani e di almeno un'altra mezza dozzina di altre nazionalità erano decisi a fare i paparazzi dei cadaveri sacri durante il loro soggiorno a Padova. Nel mezzo di quel trambusto, i componenti di una famiglia di 4 persone si erano inginocchiati davanti all'ingresso di una piccola cappella, causando, lo capivo solo ora, l'ingorgo in cui mi trovavo. «La cappella delle reliquie», sussurrò un italiano dietro di me. Sentii altri in fila nominarle in francese, spagnolo e in inglese, anche se un cartello scritto in inglese lo definivo più prosaicamente come «la sala del tesoro». Conteneva la lingua di Sant'Antonio, la sua mandibola e anche un piccolo frammento di cartilagine, forse una parte della laringe. La famiglia in ginocchio era rimasta quasi sempre in silenzio per tutti i 40 minuti che ero stato in fila, quindi non riuscivo a capire di dove fossero, ma dal comportamento e dall'abbigliamento sembravano europei. Quando si rialzarono, si fecero il segno della croce con distratta disinvoltura, come se fossero stati lontani parenti dei crociati. Da qualunque parte della cristianità provenissero, inginocchiarsi davanti ai resti di un santo era per loro un gesto normale, come lo era stato per generazione e generazione, una tradizione immutata che si ripeteva da un migliaio di anni. Famiglia tedesca si fece strada tra la ressa e io la seguii muovendomi con facilità sulla scia creata dal passeggino che il padre spingeva davanti a sé. Quando la mamma raggiunse il reliquiario, rimase a bocca aperta e subito chiamò il figlio. «Horst, guck mal, eine Zunge!» «Horst, da un'occhiata, una lingua!» Ma Horst pareva non averla sentita. Si voltò e corse in mezzo alla folla, scomparendo tra le gambe dei turisti mentre i flash lampeggiavano come luci stroboscopiche. Sua madre corse a raggiungerlo e finalmente fu il mio turno di vedere la lingua. Una volta raggiunto il piedistallo su cui poggiava, notai con sorpresa che il reliquiario sembrava il modellino di un faro. Una colonna lunga e sottile sosteneva un cilindro di cristallo, che in questo caso conteneva non una luce, ma un frammento di carne umana di forma conica, un pezzetto di corpo sotto vetro. La leggenda narra che al momento del ritrovamento all'interno della tomba del santo, circa 800 anni fa, la lingua fosse così umida e morbida da sembrare pronta a tenere un sermone per conto suo. Ma ora la decorazione in oro che la circondava pareva più adatta a un grosso diamante che al pezzo di liquirizia masticata a cui la lingua assomigliava. Il piedistallo era coperto di impronte digitali e molti pellegrini, alzandosi sulle punte dei piedi, si spingevano a baciare il marmo attorno alla base del reliquiario. Secoli e secoli di quei contatti avevano aggiunto una patina untuosa alla pietra grigia, un tenue miscuglio di rossetto, sudore e saliva, la prova che parecchie persone proprio in quel punto avevano cercato un contatto con il santo e, per suo tramite, con Dio. Mi portai le dita alla bocca e poi le avvicinai il più possibile alla reliquia. Il marmo era freddo e leggermente viscido, come una bottiglia di birra gelata in una giornata d'estate. Mentre mi dirigevo all'uscita, con la coda dell'occhio denotai di nuovo il piccolo Horst. Stava da solo in un angolo della cappella e si interrogava su tutto quel fervore. Con una mano dentro i pantaloni e con un dito dell'altra su per il naso, osservava l'ingorgo di adulti attorno a quella santa lingua, come se fosse l'unico con la testa sulle spalle. Anche se sono passati 10 anni da quando a Padova ho visto la lingua di Sant'Antonio, la bizzarra sensazione di aver atteso in fila insieme ad altri cittadini del mondo, desiderosi di vedere quello che per quanto elegantemente esposto rimaneva un pezzo di carne umana, non mi ha mai abbandonato. Ho ricevuto un'educazione cattolica, il concetto di reliquia mi era familiare, ma non essendo mai stato in Europa prima di allora, quella è stata la prima volta in cui ne ho visto una che non sembrasse un insetto sotto vetro. Al di fuori degli ambienti cattolici, non molti sanno che ogni chiesa cattolica di rito romano possiede una reliquia. Negli Stati Uniti in genere sono nascoste con discrezione all'interno dell'altare principale. Queste reliquie vengono esposte raramente e quando ciò avviene in occasione di festività o in sacrari costruiti appositamente, il più delle volte assomigliano a un moscerino, a un filo, a un ciottolo piuttosto che a qualcosa di sacro. La maggior parte delle reliquie delle Americhe sono sacre solo per associazione. Spesso si tratta davvero di fili, ciottoli, piccoli frammenti di oggetti o di stoffa che si crede siano stati in contatto fisico con un santo. Nel corso della mia cattolica giovinezza è stato facile ignorare le reliquie. Quella volta nella Basilica di Sant'Antonio fu per me la prima occasione di osservare un manufatto religioso e di rendermi conto che quello che vedevo non era qualcosa, ma qualcuno. Lo shock e il fascino suscitati in me da quella rivelazione si sono rinnovati negli anni successivi, ogni volta che sono andato a visitare una reliquia. La testa di Santa Caterina, il dito di San Giovanni il Battista, il frammento dello smalto di un dente del Buddha. Ho passato gran parte dell'ultimo decennio a riflettere e a scrivere sugli aspetti marginali della religione. E anche se le altre eccentricità della pratica spirituale dopo un po' perdono di interesse, questa particolare bizzarria continua ad affascinarmi. Sono spinto non solo dai poteri miracolosi che si vuol credere molte reliquie abbiano, non solo dalle dispute sulla loro autenticità, ma anche dal semplice fatto che esistono e dalla loro concretezza. Sono resti di santi, di profeti e di saggi, ricordi e residui di donne e uomini consacrati, soprattutto dei loro corpi. La parola stessa, dal latino reliquus, significa qualcosa di avanzato o di conservato. Viste da questa prospettiva, le reliquie sono una delle pochissime cose che collegano realmente le religioni del mondo. Tutte sono un convivio di vite sante. Le reliquie sono i loro resti. Un'altra possibile traduzione di reliquus riassume in modo conciso il significato e il potere dell'oggetto. Le reliquie sono semplicemente ciò che rimane. Sono venerate dai credenti di tutto il mondo, perché in tutto il mondo gli individui venerati dai credenti muoiono. Questa potrebbe essere una tautologia, ma è anche una verità. In qualsiasi sistema di fede in cui gli esseri umani hanno un ruolo, vale a dire in tutti, la morte di coloro che parlano di una vita dopo la morte genera inevitabilmente un problema. Alcuni muoiono in pace, di morte naturale, come il Buddha, che ha pronunciato così tante ultime parole che i suoi seguaci forse si sono chiesti se aveva davvero intenzione di andarsene. Altri muoiono per malattia, come il combattivo Maometto che sembra sia stato ucciso dalla malaria. Altri sono vittime della violenza, come i primi martiri cristiani, e altri ancora si racconta che siano semplicemente ascesi in paradiso. La Vergine Maria, innanzitutto, e una grande quantità di saggi indù. Ciò che queste figure religiose tanto diverse hanno in comune è la venerazione nei confronti dei loro resti materiali e le dispute nate per il loro possesso. Lo sterno di Buddha, il latte materno del seno della Vergine, il dente del profeta, una ciocca dei capelli mai tagliati in vita da asceti indù che si crede siano entrati in un regno superiore. Tutti sono stati al centro del fervore e dei conflitti religiosi. L'incipit di questa puntata è tratto dalla Bottega delle Reliquie di Peter Manson.